Presenta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. No, non si è meritato, ci sia stato un piccolo problema, come avete ascoltato anche nella messa in onda precedente. Comunque ci siamo, i temi che affronteremo oggi, continueremo il nostro viaggio per quello che riguarda da un lato il rapporto Censis, l'economia in ripresa ma cresce il rancore, continuando a parlarne con imprenditori di qualunque taglia come dimensione di impresa e anche qualunque regione oltre che settore produttivo, e oggi lo legheremo anche al convegno che si è tenuto a Napoli, organizzato dal Mattino. È di Napoli, avere 20 anni al sud, sono intervenuti il premier Gentiloni, il ministro Calenda, il presidente Confindustria Boccia. Gentiloni, lo dico subito, ha detto attenzione, i dati del sud dimostrano che la ripresa è in atto anche al sud, soprattutto i dati sull'export sono incoraggianti e in Campania. Però c'è poi, e ha detto Gentiloni, non c'è mai stato un periodo così buono per investire nel nostro mezzogiorno. Poi però sia Gentiloni che Calenda hanno fatto notare come la politica del no, o meglio il no a tutto, ne abbiamo parlato lungamente giovedì anche con il ministro, il neoregressismo come lo chiamano alcuni, l'immagine che si possa deindustrializzare, già non è una zona molto industrializzata, ma deindustrializzare il sud per un'idea bucolica di andare avanti solo, che ci mancherebbe, con i prodotti dell'agricoltura e con il turismo, è un'idea regressista, cioè, su questo mi dispiace, io non ho assolutamente dubbi. Altra cosa è poi ragionare sulle forme di investimento. Nel nostro mezzogiorno sono stati fatti molti errori negli anni 70, dagli anni 70 in poi, non solo le cattedrali nel deserto, la politica dirigista, iri o non iri, o cassa del mezzogiorno, questo è un altro discorso, ma dire di no a prescindere ci sembra sbagliato. Tra l'altro Calenda è intervenuto anche sulla vicenda dell'Ilva. Dopodiché, e ne parleremo con un grosso imprenditore del sud, con chi ha la più grande manifattura nel nostro mezzogiorno. Dopodiché il commercio mondiale, perché? Perché si è aperta ieri l'11ª conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la WTO, è la prima senza una dichiarazione congiunta, con grosso scetticismo sia da parte statunitense, che dice ormai sembra un tribunale la WTO, che di altri soggetti. È chiaro che insomma la vera incognita è intanto la posizione del presidente Trump. E infatti sono gli Stati Uniti che hanno deciso o hanno impedito di fatto agli altri membri di raggiungere una dichiarazione comune a Ginevra prima dell'incontro a Buenos Aires, e stanno bloccando la nomina di giudici per il Tribunale delle Dispute della WTO, impedendo di fatto all'organizzazione di decidere chi rispetta o chi va a violare le regole negoziate fino adesso. Sappiamo che la WTO è indicata come anche l'origine di questa rivoluzione in corso da quando fece entrare la Cina nel 2001 dentro diciamo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e da altri viene additata come la vera, diciamo, artefice di questa globalizzazione che farebbe solo male. In realtà è una globalizzazione che fa anche male, ma produce anche fatturati e utili anche per le aziende italiane che si sono posizionate. Ma dicevo, Trump sembra mantenere un atteggiamento per cui accetta solo i tavoli che possono portare benefici all'economia americana, cancellando le regole a favore dei paesi in via di sviluppo, quelle decise a Doha nel 2001. Ma ne parleremo. Sono stati espulsi, tra l'altro, dal vertice circa 60 esperti di ONG e sindacati che tradizionalmente partecipavano ai ai negoziati. Sembra un tema alto, in realtà sappiamo che proprio dal tipo di accordo o non accordo della WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che poi arrivano effetti concreti anche per i nostri modelli di impresa. E poi parleremo dei consumi, perché a sorpresa, dopo mesi, diciamo, in praticamente serie continue di aumento nei consumi interni, il mese di ottobre, sulle vendite al dettaglio, ha visto di nuovo il segno meno 1% in valore, meno 1,1% in volume rispetto a settembre. Tra l'altro, è il calo tendenziale, cioè anno su anno rispetto a ottobre 2016, è ancora più forte, meno 2% in valore, è il più forte dall'agosto del 2014. Sono calate sia le vendite degli alimentari, meno 1,7% in valore, sia dei generi non alimentari, meno 2,4%. Tra l'altro, questo non solo è un calo generalizzato ai generi alimentari e non alimentari, ma anche al tipo di negozio. Sia la grande distribuzione ha fatto meno 2 che i piccoli negozi hanno fatto meno 2,2%. E quindi è un calo assolutamente generalizzato. Cercheremo di capire, è la peggior frenata comunque delle vendite nel 2017. Cercheremo di capire che cosa l'abbia determinata con la Confcommercio. E poi, come sempre, la borsa, anche per questa giornata, l'indice oggi è poco mosso. Per quello che riguarda Milano, siamo a un meno 0,22%, con tra i titoli in evidenza Saipem più 3%, Tenaris più 2,60%, Fiat Chrysler più 1,70% come Leonardo, Hughes più 1%, Unipol più 0,70% come Telecom Italia ed Exor. Il fronte opposto invece FinecoBank meno 1,70%, Banco BPM meno 1,5% come Unicredit, Atlantia meno 1,30% come Snam, l'1% è il calo di Luxottic e Terna, ma anche di Enel e A2A. Le altre borse sono tutte simili o identiche a Milano, meno 0,22% anche Parigi, meno 0,22% anche Francoforte, Londra più 0,78%, Dow Jones più 0,1%, euro di pochissimo sopra quota 1,18,03. Ultima cifra, quella per gli SMS e WhatsApp, 349-238-6666, poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Oggi è anche il giorno in cui, come abbiamo ampiamente anticipato nelle scorse settimane, parte il future su il Bitcoin. Che cos'è? È un strumento derivato, ma soprattutto la scommessa di quanto farà, uno può speculare su quanto farà e quanto sarà il prezzo nel futuro del Bitcoin. Perché comunque è una nuova era? Perché questo avviene sul Chicago Board Option Exchange, quindi è un primo mercato ufficiale in cui almeno il future viene scambiato. Per quello che riguarda la moneta digitale, chiaramente ha superato la soglia prima dei $15,600, poi è arrivata addirittura a $18,850. Questo è per quello che riguarda i futures sui contratti di gennaio, cioè quanto si immagina possa arrivare a valere il Bitcoin a gennaio. Tra l'altro faccio notare che il governatore della banca centrale neozelandese Grant Spencer ha detto: sembra sempre di più una grande bolla speculativa che si sta formando. Nel corso dei secoli abbiamo visto il formarsi di bolle e questo sembra il classico esempio. Secondo Saxo Bank, invece, banca di investimenti danese che è specializzata in investimenti e in transazioni via internet, il Bitcoin raggiungerà il picco nel corso del 2018 a $60,000 per poi sprofondare a $1,000 nel 2019. Una notizia interessante che riguarda Amazon, ma non per le polemiche sulla condizione dei suoi lavoratori. Birkenstock, qualcuno insomma le conoscerà, le Birkenstock sono quei sandali da tedeschi, ha abbandonato la piattaforma, ma è interessante il motivo: dal 1 gennaio non avrà più rapporti commerciali con il rivenditore americano, perché, ha spiegato il gruppo tedesco, si è interrotto il rapporto di fiducia a causa delle ripetute vendite di prodotti contraffatti sulla piattaforma online. Il gruppo tedesco ha spiegato che deve più volte denunciato queste violazioni e ha chiesto che Amazon facesse tutto ciò che era in suo potere per prevenire queste violazioni, cosa che non è mai avvenuta. La riforma delle tasse negli Stati Uniti si tradurrà in ulteriori 1.800 miliardi di dollari di entrate fiscali in 10 anni, grazie alla crescita che sarà in grado di stimolare. Quindi, sostiene il Tesoro americano, la riforma il taglio delle tasse si finanzia da solo. È un po' un principio della curva di Laffer, se vogliamo, cioè ridurre le tasse fa sì che più persone le paghino, l'economia migliori ed entrino più soldi. Il provvedimento prevede infatti sgravi per 1.500 miliardi di dollari, ma siccome il Tesoro americano stima che questo possa spingere la crescita dal 2,2% al 2,9%, complessivamente la stima del Tesoro americano, visto che sta approvata la riforma al Senato, è che si tradurrà in ulteriori 1.800 miliardi di dollari. Qualcuno mi chiede: ma è una riforma sulla falsa riga di quella di Reagan? Insomma, da come l'abbiamo capita, mentre Reagan puntava direttamente su quella che noi chiameremo l'IRPEF, cioè le tasse, e le tasse anche delle fasce più abbienti, la riforma fiscale di Trump riduce sì il fisco e la pressione fiscale, ma per le aziende, per i gruppi, quindi sembra andare con grosso beneficio anche per Wall Street. Però non va sul reddito delle persone in senso stretto, va soprattutto sugli utili della corporate America, sugli utili delle società americane. Allora veniamo all'Italia, dove oggi tra l'altro la Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, Daniel Nui, ha detto che la BCE avrà bisogno di un mese o due per analizzare le risposte ricevute nell'ambito della consultazione sull'addendum. Insomma, è la vicenda che ha visto la Nui lanciarsi in questa ipotesi che da gennaio sarebbero cambiate le regole in maniera molto molto più restrittiva sulle future sofferenze bancarie, anche quando garantite da, come nel caso del mutuo, da un immobile. È insorto mezzo Parlamento europeo guidato dall'Italia in questo caso, è molto dura la posizione anche del Presidente Tajani. Ha fatto un po' di marcia indietro la Nui, ha detto che saranno caso per caso, insomma rischiava di creare un danno recessivo inutilmente, questo per quello che riguarda le sue dichiarazioni. Invece, al di là dei dati sul commercio a dettaglio che commenteremo dopo, un altro dato che riguarda l'Italia è il bilancio. Non è nuovo, è semplicemente l'analisi fatta all'interno del rapporto sul mercato del lavoro messo assieme da Ministero del Lavoro, Istat, INPS, INAIL e ANPAL. Dunque, dall'analisi dei flussi dei rapporti di lavoro alle dipendenze risulta che dal 2013 al 2016 sono stati attivati 40.680.000 rapporti di lavoro, ne sono cessati 39 milioni, il saldo è positivo per 916.000 dipendenti in più. Tant'è che, si legge nella nota, la ripresa accelera, il mercato del lavoro recupera in buona parte i livelli occupazionali precedenti la crisi. Questi sono dati congiunti, mettendo assieme INPS, Istat, INAIL, ANPAL e Ministero del Lavoro. L'occupazione comunque all'interno di questo quadro di 960.000 posti di lavoro in più, 916.000 dipendenti in più dal 2013, certo che c'era stata un'emorragia dal 2009 al 2013, tant'è che il tasso di occupazione per i 15-34enni nel 2016, pur con il recupero, è ancora di 10 punti percentuali più basso rispetto al 2008, cioè è al 39,9%, quando nel 2008, prima che scoppiasse la crisi, era al 49,9%, quasi al 50%. Mentre è salito il tasso di occupazione soprattutto per i 55-64enni, più 16%. Questo dovuto anche alla Fornero, ma non solo, anche a scelte di restare sul luogo del lavoro. Nel frattempo invece in 8 anni sono crollati i lavoratori autonomi, meno 430.000, 7% in meno durante 7,3% occupati in meno, 430.000 lavoratori autonomi in meno, sempre nell'osservatorio congiunto di Ministero del Lavoro, Istat, INPS e INAIL. Gli autonomi nel 2016 erano 5.400.000. E poi il presidente dell'INPS Boeri, nel suo intervento presentando il rapporto annuale che citavo, ha detto: attenzione, bisogna ridurre il numero massimo di rinnovi dei contratti a tempo. È preoccupante che la crescita dei contratti a tempo determinato sia legata a quelli di brevissima durata, sotto i 3 mesi. Forse dovremmo rivedere la norma che permette fino a 5 rinnovi. Bisogna considerare, aggiunto Boeri, se rendere più difficile il rinnovo del tempo determinato, o il rischio è che diventi un tempo indeterminato mascherato, un periodo di prova prolungato. Allora, 2 aggiornamenti dalla manovra finanziaria. Da un lato raddoppiano le tariffe per l'acquisto dei farmaci nelle farmacie in orario notturno, il supplemento passa da 3,87 euro a 7,50 euro, ed è in vigore dal 9 novembre. Il sistema delle tariffe tra l'altro non era adeguato da 25 anni. Il supplemento di 10 euro per le farmacie rurali sussidiate, quelle in comuni con meno di 3.000 abitanti. E invece, per quello che riguarda la manovra, la stretta sull'uso dei cellulari alla guida e l'obbligo di prevedere allarmi per i seggiolini dei bambini montati in macchina non sono state rese ammissibili. Resta invece il bonus ai nipoti che aiutano, o meglio ai nonni che aiutano i nipoti, non ai nipoti che aiutano i nonni, anche se dalle volte può essere così. Tendono a essere i nonni ad aiutare i nipoti. 60 milioni destinati al caregiver. Non ho capito perché si chiamino sempre in inglese questi provvedimenti. Sono destinati e sono estesi fino alla parentela di secondo grado, quindi anche al, appunto, a livello che riguarda nonni e nipoti. Meteo, pubblicità, e poi sì, mi dicono che la musica sia un po' troppo alta, avete ragione, chiedo di abbassare leggermente la musica di sottofondo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Meteo, pubblicità, e poi partiamo con il sud e anche il rapporto Istat e il rapporto Censis, quindi crescita in atto, ma crescita anche del rancore. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. :17:37, qualcuno non ha capito l'ironia sui nonni che aiutano i nipoti che aiutano i nonni, mamma mia. Certo che caregiver, la novità è che si estende fino alla parentela di secondo grado, e si potranno scegliere 2 strade. La prima, benefici a chi appunto si occupa di qualcuno; la seconda invece l'uso della legge 104, che concede 3 giorni di permesso retribuito al mese per chi deve assistere un parente con disabilità. I parenti che hanno diritto al sussidio per i prestatori volontari di cura di fatto sono quelli fino al, appunto, secondo grado. L'assistenza dovrà essere per 54 ore settimanali, l'assistito dovrà essere un invalido civile. Poi vi sarà un decreto apposito. Ma andiamo invece al nostro sud, perché oggi se ne è parlato nel convegno del giornale Il Mattino di Napoli. Avere 20 anni al sud, intervenuti vari esponenti. Partiamo dal ministro Calenda, che subito è entrato, come aveva già fatto anche con noi giovedì in diretta, sul tema dell'ILVA, e dice: il ritardo nello sviluppo del mezzogiorno si materializza quando un investitore porta 5 miliardi e il governatore di una regione fa ricorso per cacciarlo. Non ho mai visto nel mondo questa cosa. Il ritardo del Sud forse lo determina il fatto che quando arriva un investitore a investire 5 miliardi e 300 milioni di euro, caso unico nell'orbe terraqueo, il governatore di quella regione fa un ricorso al TAR e cerca di cacciarlo a pedate nel sedere. Perché io non ne ho memoria, non credo che esista un posto nel mondo che si pone questo problema. E badate che l'investitore non è che viene a aprire una nuova acciaieria per cui uno dice, sai, non voglio acciaierie perché voglio tutta new economy. No, riqualifica un'acciaieria esistente, cioè rimette a posto una cosa che c'è, che in questo momento sta inquinando e non funziona. Su questo ci vuole una mobilitazione. Quando vuole, la stanza è sempre aperta, peraltro un tavolo convocato il 20, chiesto dal governatore, a chi aveva già partecipato a un tavolo prima di cui si era detto soddisfatto. Io sono al Ministero dello Sviluppo Economico via Veneto, sono andato a Taranto, sono pronto a ritornare in Puglia, sono pronto a fare qualunque cosa. Il governatore, in modo un po' sprezzante, ha detto di me, è disperato. Ha ragione, sono disperato di perdere 5,3 miliardi di euro per un investimento al sud. Dovrebbe essere disperato lui quanto me. Vabbè, non lo dico più che io sono d'accordo su tutta la linea con Calenda, ma non sull'esito. Almeno il governatore e il sindaco vadano al tavolo, discutono, poi se non riescono a trovare un'intesa, liberissimi, ma fare ricorso prima di sedersi e capire con in ballo una cosa così importante com'è chiaramente la messa in sicurezza dell'ILVA, gli investimenti che abbiamo definito 1,3 miliardi solo la prima parte della parte ambientale, 5,3 miliardi l'intera operazione, ma dico, non può essere trattata come tema di banale campagna elettorale con slogan e così. Vabbè, sulla stessa linea il presidente Confindustria Vincenzo Boccia ha detto Emiliano ritiri ricorso e discuta con Calenda. Io auspicherei, e quindi è un appello che voglio fare qui, che il governatore, per esempio, della Puglia ritirasse il ricorso, ma non per entrare nella questione di merito, che se parte l'IVA parte anche il PIL della sua regione, non voglio, come dire, entrare nella logica di rapporto di fiducia governa-regione. Si chiudono in una stanza, aprono un confronto serrato, evitano il conflitto e la prima cosa che devi fare, non puoi fare un ricorso prima di trattare. Questo è un elemento di fiducia e di coerenza e di esemplarietà. Allora occorre coerenza, occorre essere esemplari, occorre evitare la cultura del sospetto. Chi sbaglia va in galera, ma dopo? Se chiude l'IVA, chi paga? Se l'investitore arretra, chi paga? Che cosa accade? Quale questione sociale andiamo ad affrontare in quella città? Premesso che le ragioni dell'ambiente e dello sviluppo vanno avanti. E qual è il senso di responsabilità della politica? E quale asset importante è ILVA in rapporto all'industria primaria e secondaria del Paese? Queste sono domande che dobbiamo farci. E questo significa però avere un rapporto di fiducia. Entrare nella stanza con il ministro Calenda, chiudersi dentro, confrontarsi e non usare l'arma della terza gamba, che è quella della magistratura, sia essa TAR o altro, per risolvere altre questioni. Sarebbe un bellissimo segnale. E so che direte, è certo che dai ragione al presidente Confindustria, non me ne frega nulla. È questo il tema che abbiamo evidenziato fin dal primo minuto, e cioè prima ti siedi, tratti, continui a trattare, esponi le tue esigenze, le tue preoccupazioni, i tuoi dubbi sui tempi dell'investimento per mettere in sicurezza, sull'ammontare, sulla affidabilità dell'investimento, tutto quello che vuoi. Poi, se non sei convinto, non ottieni rassicurazioni, a quel punto mi dici niente, io faccio ricorso al TAR. È assurdo avere stravolto il principio, c'era un tavolo indetto, non si sono mai presentati. Ok, poi chi mi scrive, viva Emiliano, viva il ricorso, via l'ILVA, via l'industria, viva il sole, viva le patate, le olive, le arance, ma certo, torniamo a mangiare patate, olive, arance, turismo, tutto quello che volete. Per carità, dimostratemi che si regge l'economia della Puglia in questo modo, e io non penso che ci sia nessun problema, ma dimostratemi, ma dimostrato non a me, ai 12.000 occupati più 20.000 con l'indotto. Va bene, i dati sull'export incoraggianti invece da parte che arrivano dal nostro mezzogiorno, commentati dal Presidente del Consiglio Gentiloni, li facciamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Di nuovo in diretta, dicevamo, l'intervento del Presidente del Consiglio Gentiloni, dopo aver detto dobbiamo far sì che andare a studiare o lavorare all'estero non sia una triste condanna ma una scelta irreversibile, ha parlato in maniera specifica del Mezzogiorno, la crescita nelle regioni meridionali prese nel loro insieme, anche se è una forzatura prenderle tutte nel loro insieme, ha detto Gentiloni, è allineata a quella nazionale, questo appunto durante il convegno promosso dal quotidiano Il Mattino, avere 20 anni al sud. Abbiamo dati sull'export in varie regioni meridionali che pur partendo da livelli ridotti sono estremamente incoraggianti. Tra l'altro, io dico livelli ridotti sì, perché la botta c'è, cioè, stata in tutto il paese, ma dal 2008 ci sono nel mezzogiorno 1.800.000 occupati in meno, il PIL ha fatto meno 14%, mentre il PIL nazionale fece meno 9%. E poi ha detto Gentiloni: mai come ora è così vantaggioso investire al sud. E abbiamo, credo, lo diciamo anche poco tra di noi, e secondo me in questo dobbiamo aiutarci a dirlo con più coraggio. Abbiamo delle condizioni in questo momento, adesso, non tra tre anni o adesso, in questo momento, abbiamo delle condizioni per investire e creare lavoro al sud che sono di una convenienza senza precedenti. Oggi c'è un concorso di diversi fattori e di diverse decisioni politiche che sono state adottate dai governi negli ultimi anni, che fanno sì che chi oggi ha l'obiettivo di investire e di creare lavoro nel mezzogiorno lo può fare a condizioni che non sono mai state così vantaggiose. Così appunto il Premier Gentiloni. Noi restiamo sul tema del Sud, perché lo uniamo anche al viaggio che stiamo compiendo ormai da due settimane, da quando è uscito il rapporto Censis, che lo ricordo, nel rapporto di quest'anno sostanzialmente si titola "La ripresa in atto ma cresce anche il rancore", o cresce il rancore. Per capire che cosa non stia funzionando, abbiamo avuto diversi interventi. In una ripresa, statisticamente, come dato aggregato, è indubbiamente in atto. Altra cosa è che non si distribuisca né come numero di ore lavorate, ma soprattutto non si distribuisca in maniera, diciamo, come avveniva negli anni passati. Crea invece ancora più differenze tra le imprese che ce l'hanno fatta e le imprese che sono ancora in difficoltà. E soprattutto le imprese che si sono legate all'export, agli altri mercati, hanno innovato il prodotto, non solo il processo, come ci ha spiegato appunto l'imprenditore Carraro la settimana scorsa, e imprese che invece non sono ancora nella filiera del valore. Tenere assieme le due cose si può fare, cioè i segnali di ripresa, anche se veniva da dati più negativi del centro-nord delle industrie del nostro mezzogiorno, con il ragionamento più generale sulla qualità, le caratteristiche di queste riprese. Lo si può fare con quello che è la più grande azienda manifatturiera del sud Italia. Il gruppo forse non è molto conosciuto e non addetti ai lavori, si chiama gruppo Adler Pelzer, fondato nel 1956, ha sede a Ottaviano, che qualcuno ricorderà per le cronache di Camorra, come sono la patria dell'ex boss Cutolo. In realtà è appunto sede della prima azienda manifatturiera del sud Italia, che vuol dire 70 stabilimenti in 23 paesi, 12 centri di ricerca e sviluppo, 15.000 dipendenti, per un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. Cosa fa l'Adler? Produce componentistica per il settore dell'auto e anche dell'aeronautica, nella parte acustica, quindi a comfort acustico, termico, l'arredamento interno per l'aerospazio, per i treni, per le automobili, e quindi lavora anche e soprattutto in maniera innovativa i polimeri, le fibre, con particolare attenzione al riutilizzo delle materie prime, e praticamente sono in due a livello mondiale: c'è Adler in provincia di Ottaviano e poi c'è una multinazionale in Svizzera. Noi siamo in collegamento con il presidente, nonché anche azionista del gruppo Adler, Paolo Scudieri. Buonasera, ingegnere. Buonasera a voi. Poi arriviamo al suo caso particolare, ma ricolleghiamoci in questo momento con le parole di Gentiloni da un lato, ma anche con quanto abbiamo commentato con il ministro Calenda la settimana scorsa, nostro ospite giovedì: il neoregressismo. Io ho letto un passaggio, a mio avviso molto emblematico: un conto è tutelare l'ambiente, un conto è dire no a tutto. Abbiamo sentito poco fa anche il ministro Calenda di dire: il ritardo del sud si materializza con i no a tutto. Allora, non voglio tornare sulla polemica di giovedì, dal termovalorizzatore al TAP, al gasdotto, all'ILVA, quant'altro, ma lei che lì opera sente quello che appunto è stato chiamato da alcuni osservatori neoregressismo, cioè una voglia di dire sì, tanto vivremo di turismo, che per carità è cosa buona e giusta, di agricoltura, magari di nicchie, ma è un neoregressivo nel senso che dice no a qualunque tipo di proposta di investimento anche di carattere industriale? Il tema è particolarmente acceso ed è spinoso. Spinoso lo è perché la regia è sicuramente, quando non legge le esigenze dei mercati, della globalizzazione, delle opportunità di incoming che abbiamo nella nostra nazione, no? Di essere attrattivi per l'industria internazionale, evidentemente sono fattori che divergono da una necessità e atterrano su fattori strettamente politici e di enunciazione di teoremi che sono dimostrabilissimi, quali negativi, quali anacronistici. Questo è la pecca del Sud, è quello che toglie al Sud la possibilità di avere un futuro roseo, di avere un'attrattività non solo verso le imprese internazionali che vorrebbero, a fronte di una lungimiranza strategico-politica, venire a investire, ma anche toglie ai giovani, quelli che sono andati via e hanno fatto grandi esperienze all'estero, di poter tornare, perché le imprese, evidentemente, di questa politica che si batte tra esigenze specifiche e il desiderio di dire no per conquistare voti molto molto come dire di protesta, evidentemente non crea quelle possibilità che invece il Sud potrebbe avere. Siccome vedo i messaggi al 349-238-6666, aggiungo che non stiamo parlando solo dell'ILVA o del TAP, perché ci sono tutte le forme di termovalorizzazione che non si riescono a fare. Abbiamo citato il caso del nord e anche centro nord Italia, dove i termovalorizzatori esistono, producono energia e nessuno si lamenta, così come nel centro e nord Europa. Ma ricordo anche la vicenda di British Gas a Brindisi, piuttosto che gli investimenti a Priolo, il porto di Rotterdam che viene a mandare gli ispettori per cercare di capire se può fare un accordo con Taranto e poi se ne vanno proprio perché capiscono che non ci sono le basi. Cioè, è la sensazione, per carità, ingegner Scudieri, forse dovuta anche a investimenti sbagliati negli anni 70 e 80, quando si cercò di fare un'industrializzazione forzata dall'alto, diciamo, dirigista del nostro mezzogiorno, ma il che non vuol dire che sulla base di quello tu debba dire no a qualunque cosa. Ma secondo lei, andando ancora più nel concreto, quando lei opera, che sensazione ha? Perché poi i posti di lavoro al sud, ancor più che al nord e al centro, sono un elemento cruciale, un elemento mancante. Noi ci confrontiamo in modo trasversale con tutto ciò che succede nei paesi del mondo. Appunto, lei ricordava le nostre allocazioni, che sono in 23 paesi diversi, e quindi possiamo constatare pregi e difetti di vari luoghi, e le dico che assolutamente l'Italia e il sud dell'Italia ha un potenziale incredibile, altissimo. Basterebbe, come dire, avere una lungimiranza e una coesione sui fattori strategici di impostazione per rendere assolutamente plausibile un miracolo, ma un miracolo tangibile. Però mi dica in maniera ancora più concreta, lei ha 15.000 dipendenti, quanti sono in Italia e quanti sono nel nostro sud più o meno? In Italia ne occupiamo oltre 3.000, molti le abbiamo formati provenienti da bacini di crisi. Abbiamo investito, come lei ha ricordato, in un fattore importante che è l'economia circolare, quindi l'utilizzo di materiali che possono essere integrati nel ciclo produttivo, e abbiamo creato nuovi posti di lavoro, ma abbiamo creato soprattutto nuova professionalità. Quindi questo filone del molto molto pesante dal punto di vista del perseguire una politica di educazione, di nuova formazione al personale, ma è quella che ci darà più possibilità in futuro di leggere in modo moderno l'industria. Allora facciamo una cosa, ingegnere Scudieri, adesso al GR24 dopo ci dice intanto che si ha difficoltà a trovare manodopera formata, quanto la pagate, i famosi tornitori, ma non solo, che difficoltà incontra da questo punto di vista. Do anche qualche risposta a chi mi sta scrivendo da Taranto, dal quartiere Tamburi. Do dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto siamo bombardati da informazioni, internet, i social, la TV, le chat, senza contare i vecchi bar e il passaparola. Per fortuna ci siamo noi, siamo qua apposta a metà giornata per rimettere ordine nelle notizie e per raccontarvi, col Giro d'Italia, piccole e grandi storie dal nostro paese. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutti i giorni alle 13 con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco commenteremo anche la borsa. Allora, leggo dei vari messaggi che stanno arrivando sull'Ilva. Uno, me lo scrive Massimo da Taranto: nessuna presa di posizione pseudo-ambientalistica, chiediamo solo che Calenda, con figli e nipoti, viva al quartiere Tamburi fino a fine lavori di ambientalizzazione. L'invito è esteso anche a lei e a famiglia. Lo leggo in diretta, gliel'ho appena letto. Ma, mi scusi, qui nessuno sta dicendo che non si debba, anzi, c'è un tavolo che Calenda aveva convocato con Emiliano e col sindaco di Taranto proprio sulla parte degli obblighi ambientali, l'investimento previsto dall'ArcelorMittale di 1.300.000.000, ma va benissimo discutere in un tavolo, chiedere garanzie, porre anche dei temi sui tempi, ci mancherebbe. Quello che stiamo contestando non è l'esigenza della regione o del comune di avere garanzia e di dire la propria su tempi per il rispetto degli obblighi ambientali. Faccio notare che il problema Ilva esisteva anche prima dell'arrivo di ArcelorMittal e di Calenda, nel senso che c'erano i Riva che sono stati pure multati. Calenda ha spiegato che c'è 1.300.000.000 più un altro miliardo che arriva dal sequestro dei Riva per la parte ambientale, e lo ha fatto ai nostri microfoni. Però non facciamo finta che adesso l'Ilva inizia a inquinare da ora, da quando sono arrivati gli indiani di ArcelorMittal, perché inquinava anche prima. E mi ricordo che ne parlammo anche l'accordo con l'allora governatore della regione Puglia Nichi Vendola e l'Ilva. Quindi siamo tutti consapevoli del fatto che vada messa mano alla sicurezza ambientale, cosa che non è stata fatta prima. Il punto è: prima ti siedi al tavolo, discuti, poni i tuoi temi, lo riaggiorni, poi se veramente non ottieni nulla o ritieni che quello che hai ottenuto sia insufficiente, fai ricorso al TAR, non viceversa. Viceversa vuol dire non essere costruttivi e avere solo un obiettivo politico. Comunque, restiamo in diretta con l'ingegnere Paolo Scudieri, presidente del gruppo Adler, che ripeto è la più grande azienda manifatturiera del sud Italia. Senta, ingegnere, quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nella ricerca di manodopera? Formazione o che cosa? Allora, la formazione sicuramente in Italia è un problema. In Italia non si trovano saldatori professionisti, per esempio, non si trovano. Quanto lo paga lei un saldatore professionista? Così adesso primo ingresso. Ma guardi, perché tanto so già che l'obiezione, che può essere anche corretta, ma sono pagati meno che altrove, quindi giustamente. Per carità, noi paghiamo solamente, ovviamente, con un contratto nazionale, e poi abbiamo un contratto integrativo, quindi praticamente premi secondo obiettivi di produttività e di qualità del prodotto, che è il biglietto per presentarsi in tutto il mondo con un prodotto efficace e all'onore delle migliori qualità e delle performance. Però il fattore importante è quello che diciamo ci rende veramente tristi, e il fatto che abbiamo conquistato con il Job Act, abbiamo conquistato un grande pezzo di modernità, e quello che io leggo e sarebbe un dramma è che in qualche modo si tratta, giorno dopo giorno ci si impegna per poterlo in qualche modo smontare, e questo sarebbe un'ulteriore fase di regresso che possiamo perseguire, ahimè, distruggendo ciò che di positivo fino ad oggi abbiamo fatto. Però, per inciso, quanto guadagna un saldatore da lei, insomma, nella zona, diciamo, che mette in campagna? Sì, credo che guadagni sicuramente intorno ai 2.700 euro. Però, netti o lordi? Penso lordi. certamente, però un saldatore insomma che abbia una che ha formazione fatta da noi e professionista ovviamente della propria è chiaro, insomma, senta, tornando però al tema del Censis e quindi la ripresa in corso, e ce lo dicono al di là del dato di oggi sui consumi a ottobre, ma insomma ce lo dicono tutti i dati aggregati, anche il rapporto di quanti posti di lavoro si sono creati, diciamo, negli ultimi 3 anni, ma è una ripresa che non viene vista, lo dico non perché non ci sia, cioè viene vista da alcuni, e lo scrivono anche modestamente a noi, ma crea rancore, cioè quasi rabbia in altri, perché se tu ti senti raccontare che questa ripresa è in atto e tu non ne vedi nulla o vedi poca cosa, non solo dici non la vedo, ma ti incavoli pure, mettiamola in questo modo. Secondo lei che cosa manca perché vi sia una... è chiaro che ci sarà sempre una fetta di persone che dice la ripresa non è in corso o non è sufficiente, ma perché diventi una valutazione più condivisa, quindi una sensazione non solo delle imprese che sono, che esportano e che si sono riammodernate, che sono sui mercati, ma più diffusa. Guardi, la ripresa c'è in atto, la leggiamo. La leggiamo noi come imprese e a valle sempre di più, se continua questo trend, me lo auguro, se non ci mettiamo i bastoni tra le ruote e diciamo no a tutti i costi, continuerà, perché man mano che si conferma e progredisce, evidentemente sempre di più aziende verranno coinvolte, sempre di più quindi distribuzione di ricchezza verrà fatta. E quindi praticamente il volano potrà prendere una velocità tale da essere percepita in modo molto, quindi molto più. Quindi lei dice che è solo un fattore di tempo, se continua. Assolutamente, se continuiamo a leggere con chiarezza ciò che è stato letto fino ad oggi, quindi non avere interruzioni. Io per carità lo dico con grande disagio, ma le ulteriori elezioni a cui andiamo incontro sicuramente non sono fattori positivi. Oddio, le elezioni sono sempre un fattore positivo per la democrazia. No, non sono per la democrazia, assolutamente sì, ma per anche perché mancano che da un po'. Le strategie adesso collegate. Ah no, certo, il fatto che l'incertezza politica non aiuti gli investimenti, questo è un altro dato di fatto, e questo giro l'incertezza, non perché lo diciamo noi, perché nei numeri, nelle proiezioni, nei sondaggi è altissima. Però, scusi, da questo punto di vista, lei si sarà fatto un'idea, visto che lavora con tantissimi fornitori e vede anche altre aziende campane o italiane, qual è, se c'è l'elemento che ha fatto in questi anni, sta facendo la differenza tra chi di voi ormai ha imboccato una strada positiva, poi fermo restando che, come dicevano altri suoi colleghi, i piani una volta si facevano, i cicli duravano 7 anni, adesso durano molto meno, per cui tu sì, hai sistemato le cose, ma hai un respiro molto più breve rispetto a prima. Però la differenza tra chi in qualche modo è riuscito a scavallare e almeno a riposizionarsi con dati positivi in fatturato, ricavi e ordini, e chi invece ancora non ce l'ha fatto, ancora a metà del guado. Qual è la differenza? Se lei dovesse spiegarlo, diciamo, a uno studente, qual è? Allora, la differenza è leggere la modernità e ciò che l'economia del mondo può darci. I mercati non devono essere più solamente mercati del nostro orticello, cioè quei mercati vicini a noi, ma deve essere letta l'esigenza dei consumatori del mondo. Quindi le aziende assolutamente non possono essere più localizzate, ma le strategie aziendali devono essere molto più ampie. Senta Scudieri, io la ringrazio perché siamo adesso sotto il traffico, vedo molti messaggi, vediamo se con qualcuno riesco e a qualcuno riesco anche a rispondere. I 2700 euro sono lordi, alcuni dicono sono pochi per il lavoro che fa il saldatore, per carità, ripeto, se veramente poi l'assenza di manodopera qualificata a tutti i livelli verrà verificato che è solo ed esclusivamente perché si offre di più all'estero, il mercato dovrebbe adeguarsi. Il problema è che delle volte non riusciamo nemmeno a trovare la manodopera qualificata, come abbiamo raccontato anche in questi mesi. Che non vuol dire che non ci sia, ne parleremo di nuovo, ne abbiamo parlato in apertura, un tema enorme di disoccupazione. È anche un tema di incrocio tra domanda e offerta. Comunque, grazie di nuovo al presidente del gruppo Adler, Paolo Scudieri. Andiamo sul traffico, poi la borsa e i consumi che a ottobre hanno avuto una frenata imprevista, ma anche e soprattutto brusca. Focus Economia. 18 e 18 minuti, dunque no, non ho mai detto che non dovremmo votare per favorire la crescita. Scudieri diceva la campagna elettorale, le incertezze sicuramente sono un elemento in cui ti puoi anche fermare prima di vedere che direzione prende e che investimenti fare. Dopodiché, ragazzi, le elezioni sono il momento più alto della democrazia, non mi sembra che ne abbiamo fatte tante in questo periodo, quindi ben vengono le elezioni, e poi tra l'altro non lo decidiamo mica noi, è la legislatura che va a scadenza naturale. Andiamo sulla borsa, oggi dicevo debole, ma come le altre borse sostanzialmente europee anche Milano, meno 0,36%, Parigi meno 0,23% come Francoforte, Londra più 0,80%, Dow Jones più 0,14%, bene Tenaris più 2,70%, Saipem più 2,5%, Fiat Chrysler più 2%, e ancora Hughes Net A Porter più 1,20%, Unipol più 0,70% come Telecom Italia ed Exor. Chi è andato peggio invece? Oggi BPM un pochino, ma soprattutto alla fine Fineco Bank meno 2% come Unicredit. BPM meno 1,70% dopo i rialzi nei giorni scorsi innescati dalle nuove regole su Basilea. Terna meno 1,40% come Snam e Luxottica, all'1,20% lo perde Enel, ma anche Atlantia fuori, diciamo, dal listino principale. Faccio notare che c'è stato anche un andamento abbastanza divergente tra Italia Independent più 17,36%, Exprivia più 10,95%, Tods più 4,45% e Zignago Vetro più 4,20%. Fronte opposto invece per Mittel meno 5,20% e poi Prismi meno 5,12%, Softec meno 4,30%, Invest meno 3,96%. E poi sempre in tema di borsa, ma non c'entra con l'andamento dei corsi azionari. Sì, qualcuno mi fa notare, Leonardo Finmeccanica andava molto bene oggi, poi ha azzerato tutti i guadagni. Il motivo per cui andava molto bene alla fine, Leonardo, ex Finmeccanica, ha chiuso con un più 0,1%, erano i nuovi ordini annunciati in questi giorni. Ma dicevo, Borsa Italiana ha lanciato assieme al FTSE Russell il nuovo indice FTSE Italian Brands. Sostanzialmente va a considerare anche le attività intangibili di 22 società italiane e sarà attivo dal prossimo lunedì 18 dicembre. I pesi delle varie società saranno fissati con revisione trimestrale dai costituenti in base alle regole del FTSE Russell. È un modo per promuovere, lo dico in maniera molto banale, i marchi italiani che si distinguono per creatività, eccellenza, innovazione, appunto i famosi intangible assets, cioè quelli che non riesce a mettere in bilancio in maniera così chiara, ma fanno parte, per esempio, la qualità e le competenze dei tuoi dipendenti. Ultimo tema riguarda invece l'andamento delle vendite al dettaglio dei consumi in Italia, perché dopo mesi interi di continua, anche se non strepitosa crescita, è arrivata una frenata a ottobre. Hanno fatto anno precedente, quindi ottobre 2017 su ottobre 2016, meno 2,1% in valore, e il calo anno su anno più forte dall'agosto 2014. E tra l'altro sono calati sia gli alimentari, meno 1,7% in valore, che i non alimentari, meno 2,4%, e sono calate sia le vendite nei piccoli esercizi, meno 2,2%, ma anche nella grande distribuzione, meno 2%. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera. Che è successo? Nel senso che vedo che altre categorie simili a voi, Confesercenti, dice adesso servirà un Natale molto positivo perché è la peggior frenata dell'anno. La Coldiretti dice battuta d'arresto in attesa del Natale. C'è stato qualche elemento specifico, congiunturale, oppure? Dunque, A mio avviso i consumi sono un po' l'anello debole di questa, di questa ripresa, perché fino a una settimana fa, due settimane fa, avevamo celebrato quell'1,8 che poi è stato rivisto a 1,7 dall'Istat, mi riferisco alla variazione del PIL nel terzo trimestre, che nelle celebrazioni è stato detto anche il Sud si sta muovendo, abbiamo agganciato la ripresa internazionale, in media siamo come produzione industriale, abbiamo raggiunto in termini di variazione la Germania. Va bene, le celebrazioni ci stanno, ma i consumi dentro quelle celebrazioni non ci sono, c'è poco da fare. Abbiamo avuto un anno 2017 buono, soprattutto nella prima parte, per l'incremento delle vendite di auto e anche di altri elettrodomestici, però a noi sembra che sia il dato di novembre in cui la fiducia si riduce, sia questo dato molto brutto di ottobre, assieme al fatto che l'occupazione si sia fermata sostanzialmente negli ultimi 3 mesi, a noi sembrano tutti elementi che descrivono un quadro in cui la ripresa sta perdendo slancio. Forse è una lettura troppo pessimistica, ma mi pare che ci siano degli elementi per supportarla. Anche per esempio il fatturato dei servizi è abbastanza bloccato, la produzione industriale mostra qualche oscillazione ultimamente, quindi c'è il rischio che noi parliamo di grande ripresa, ma di una cosa che sta perdendo un po' di vigore, e questo è abbastanza fastidioso in chiave soprattutto 2018, che è un anno in cui diciamo ci sono delle ombre. Allora lo dico così, rispondo anche a chi scrive: negli ultimi trimestri, quanto a PIL, abbiamo sempre rivisto al rialzo l'andamento dell'economia, e c'è stato poi invece la settimana scorsa c'è stata una leggera correzione sul PIL del terzo trimestre. Ora il problema non è la crescita già portata a casa, quella acquisita, è come entri nel 2018, perché se entri un po' frenando non è cosa buona, oltre che non essere cosa giusta. Altra cosa è dire se si dovesse confermare un andamento migliore, perché inizialmente il governo e i vari organismi stimavano 1%, quest'anno faremo 1,7%, forse 1,8%. Bella, le giro alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Non è che alla fine gira e rigira, per carità, il PIL cresce perché aumentano i fatturati delle imprese che esportano, ma il tema consumi si lega in maniera totale con il tema salari, e quindi se è rallentata anche la dinamica occupazionale c'è un tema salariale. Altri mi scrivono: scusatemi, ma riuscite a fotografare i dati dell'e-commerce nelle vendite al dettaglio, che non so quanto incidano, ma insomma sono sempre un dato. A chi mi dice lei ha festeggiato troppo presto, guardate che non è una partita di calcio. Se io vedo dei dati positivi sul certo. PIL per 3 trimestri, sono contento per il paese, non me ne frega nulla. Non ho un bonus agganciato al PIL, magari visto il 2017, e meno male di no, visto gli anni precedenti. No, sembra quasi che uno stia tifando per 2 squadre, ma non è così. Cioè, se l'economia riparte, riparte prima o poi dappertutto, con tutte le difficoltà sulle sperequazioni che abbiamo raccontato. Se non riparte, allora, sicuramente non ripartono neanche i salari e i consumi. Prego, Bella. L'e-commerce non c'è nell'indice delle vendite al dettaglio. L'Istat ci sta studiando, ma per queste sono vendite del commercio fisso al dettaglio. Una volta era questa la... Quindi non c'è. E quindi questo può valere qualche decimo in termini di crescita, ma decimo di punto non molto di più. L'e-commerce, diciamo, è arrivato secondo il Politecnico di Milano sui 26 miliardi, quindi è importante, però ancora una frazione estremamente piccola. Invece mi sembra che quello che ha detto l'ascoltatore sul discorso dei salari è molto centrato, perché quello che stiamo vedendo, ma questi sono dati ufficiali dell'Istat, è che il PIL cresce e siamo tutti contenti. Però il reddito disponibile, cioè la produzione che si trasforma in redditi, salari, in risultato lordo di gestione, eccetera, cioè quello degli indipendenti, questo da 4 trimestri, diciamo dal terzo trimestre del 2016, è sostanzialmente fermo. E questo è un punto interrogativo abbastanza grave. D'altra parte, con tutti gli incentivi agli investimenti che sono stati dati alle imprese, e che sono una cosa sacra gli investimenti delle imprese, perché l'accumulazione è un driver di crescita a lungo periodo, è chiaro che molte imprese, anche le piccole, stanno preferendo investire piuttosto che portare a casa dei risultati in termini di reddito, e questo credo che un po' fa... Cioè, fa se ne dice, aver avuto gli iperammortamenti e i superammortamenti, 140-240%, sì, può aver portato molte imprese, poi uno deciderà se è giusto o no, se devi riammodernare è meglio farlo per mantenere l'occupazione che hai, a prediligere l'investimento sul processo, oltre che sul prodotto anche, che l'investimento salariale. Dunque, se il PIL cresce dell'1,7, come lo distribuiamo in termini di conto delle risorse degli impieghi? Se poi di questo PIL che cresce dell'1,7 gli investimenti vanno a 3-3,5, i consumi tenteranno leggermente, no? Quindi da questo punto di vista, ora senza entrare in polemica che non è proprio il caso, da questo punto di vista diciamo c'è un disegno del governo, industria, impresa 4.0, la crescita di lungo termine va benissimo, però qualche preoccupazione sul fronte dei consumi c'è. E per adesso, con quel reddito disponibile bloccato, è stata la crescita della protezione al consumo, soprattutto negli ultimi mesi, che ha tenuto. E io sono preoccupato di questo fatto. Se le persone a un certo punto si stancheranno di accrescere la quota di consumi negli ultimi mesi, perché vedono che i loro redditi non crescono, a un certo punto, se si riduce la protezione al consumo, potremmo avere una frenata forte in termini di consumi. Guardate, l'indice delle vendite al dettaglio è importante, però non è tutto. C'è qui dentro, per esempio, non c'è tutto il turismo, che sta andando bene, sia degli stranieri che degli italiani, non ci sono tanti beni durevoli. No, ma io non mi sto già facendo la testa, dico solo, come sempre, guardiamo i segnali positivi, commentiamo e guardiamo ancora con maggiore attenzione i segnali non positivi, in questo caso negativi, per cui attenzione che non si stia già indebolendo. Grazie intanto a la ripresa in atto. Grazie Mariano Belle, direttore del Centro Studi di Confcommercio, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia che torna domani alle 17 da Sebastiano Barisoni. L'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.